9 in punto. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti a 9 in punto. Come già vi dicevamo nell'anteprima, oggi vogliamo provare a parlare di immigrazione in maniera un po' più seria. Come avete visto negli ultimi giorni, l'attenzione si è concentrata moltissimo sul ministro Kyenge, tante discussioni sullo Ius Soli, tante discussioni sul razzismo oggettivo della dichiarazione. Molti hanno detto una battuta, no, è razzismo bello e buono, sulla battuta del vicepresidente del Senato Roberto Calderoli, il tutto accompagnato da, insomma, vi basta farvi un giro in rete, su internet, vedere i commenti che ci sono sugli status su Facebook di alcuni assessori leghisti. Tra l'altro vi dico che di questo ne riparleremo domani in Voto Antonio, perché abbiamo voluto affrontare anche questo domani mattina dopo il GR delle 9, abbiamo voluto affrontare anche questo, il problema del razzismo online, come si combatte. Ma oggi vogliamo parlare più in generale di immigrazione. Parlare di immigrazione, ma non per toccare i soliti temi, flussi migratori, il reato appunto di immigrazione clandestina, che pure sono importanti e sicuramente sfioreremo. Ma vogliamo soffermarci un po' di più sull'aspetto economico, perché tra l'altro in settimana sono stati diffusi i dati dell'Istat, il rapporto sull'immigrazione in Italia, sugli immigrati nel mondo del lavoro. E ci sono molte cose interessanti e ci sono anche una serie di luoghi comuni da sfatare. E però partiamo da una storia. È in studio con noi Radwan Kavatmi, che è un imprenditore italiano di origine siriana. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, poi lo sentiranno anche gli ascoltatori dall'accento. In realtà lei è cresciuto, i primi anni della sua vita li ha trascorsi in Siria e poi è venuto qua per studiare. Ci fa un breve resoconto dei primi anni della sua vita? Sì, grazie. Sono arrivato in Italia per motivi di studio. Ho ultimato i miei studi e poi sono stato catapultato immediatamente in una grande realtà industriale, non per fare la pubblicità, ma storicamente era la più importante azienda, la Indesit. Quindi che tra l'altro vive un momento difficile. Vive un momento difficile. Tra l'altro, quando sono entrato, viveva, no, alla fine degli anni 70, lo stesso identico momento di difficoltà. Quindi sono entrato, c'era praticamente una questione di sindacale estremamente tesa, eravamo alla fine degli anni 70. In poche parole, l'Indesit vendeva nei mercati del Medio Oriente 40-45 milioni di lire, delle vecchie lire. Nel giro di 3 anni ho portato il fatturato nel Medio Oriente a 42 miliardi di lire. Quindi l'azienda è stata risanata, tanto vero che alla fine degli anni 80 è stata ceduta al gruppo Merloni del dottor Vittorio Merloni. Allora, lei è arrivato a rivestire il ruolo in questa azienda, che è una grande multinazionale, di direttore commerciale. Lei ormai tra l'altro è da 40 anni in Italia, lo ricordiamo, quest'anno sono 40 anni. Esattamente. Quest'anno sono 40 anni in Italia e a un certo punto ha deciso, sapete che c'è, io questa mia esperienza la metto al servizio, per così dire, di me stesso. Poi un imprenditore non mette mai solamente al servizio di se stesso, ma anche mettere la sua esperienza al servizio dell'economia che si crea intorno. Però ha detto, metto questa esperienza al servizio di me stesso e non di un'altra azienda, e fondo l'azienda mia. Questo quando? Esattamente. Questo alla fine degli anni Ottanta, con una clamorosa decisione, fu licenziato dalla Indesit con due buste. Una portava il mio licenziamento, l'altra un assegno con un capitale estremamente importante da parte della proprietà, dicendomi vai avanti, tu sei in grado di essere un grande imprenditore. Grazie a questo clamoroso gesto ho fondato la mia azienda, siamo partiti praticamente agli inizi degli anni 80, oggi posso dire con molta modestia che è una delle più importanti realtà a livello europeo, siamo al primo posto in tutto il Medio Oriente e il Nord Africa, lavorano centinaia di persone. Però non ci ha detto cosa fa la sua azienda. Noi produciamo elettrodomestici, esattamente come la mia vecchia esperienza alla Indesit, sia nel settore del freddo, del lavaggio, della cottura, e con grande orgoglio posso affermare oggi che 3 anni fa il governo francese ha concesso praticamente alla mia azienda la licenza Thomson, dicendo che i francesi fanno shopping in Italia, ma un nuovo italiano è venuto a fare shopping in Francia portando il marchio Thomson. Allora, quanti dipendenti ha? Come va l'azienda? Ma noi siamo circa 150 persone, no? L'azienda lotta, ovviamente, lavoriamo, situazione estremamente difficile, ma posso dire che veniamo osservati dai stessi cinesi che sono venuti a studiare il modello per vedere come riesce questa azienda a competere a livello internazionale. Siamo presenti in ben 37 paesi. Devo dire che siamo molto molto ambiziosi per il futuro, per diventare ancora più grandi. Allora, voi fate produrre gli elettrodomestici in 3 regioni, Napoli, Veneto e Marche, quindi coprite tutto, diciamo, nord, sud e centro Italia, e di fatto vi occupate della distribuzione, no? Esattamente, abbiamo una rete distributiva con degli agenti, la nostra rete distributiva che copre 36 paesi. Ci dice come si è trovato in Italia, se ha trovato, pur naturalmente da una posizione particolare, perché insomma molti stranieri vengono qua e si trovano, come dire, non ci vengono per studio innanzitutto, ma ci vengono per lavorare, certo, direttamente, si trovano in una condizione di occupazione di basso livello. Detto ciò, vorrei capire che percezione ha avuto lei in questi ormai 40 anni di vita. Guardi, mi ricordo veramente, mi vengono i brividi quando penso, io sono venuto su una nave e sono sbarcato a Napoli, quindi c'è molta analogia fra la mia storia e la storia di migliaia e centinaia di migliaia di immigranti, no? Anche se il motivo era diverso, sono venuto per motivi di studio. Sì, ho avuto le solite difficoltà, prima di tutto gli aspetti linguistici, perché devi imparare praticamente la lingua italiana, e grazie ai gesuiti e al loro amore e loro attenzione sono sbarcato a Parma, e di conseguenza da Napoli sono venuto in una piccola cittadina. Mi hanno accolto molto bene, eravamo in pochi a quei tempi lì. Ho imparato la lingua italiana in 4 mesi e al 9° mese parlavo il dialetto parmigiano. Ah, ecco. E quindi ho avuto le mie difficoltà, ovviamente. Ci dica qualcosa in dialetto parmigiano. Mi son pranzan del sas da bon. Ah, fantastico, che vuol dire? Io sono parmigiano vero, no? Pranzan de sas, si dice, no? Cioè de sas perché la Parma vecchia è quella che si trova al di là del torrente, si chiama pranzan del sas. E ho avuto molte difficoltà, ovviamente, l'inserimento, la differenza nella cultura, la differenza dell'uso, del costumi, anche il cibo stesso, e quindi l'adattamento per quello che riguarda questo. E anche sospetto nei confronti di una persona che viene dall'altra parte del mondo, tanto vero che io mi ricordo venivano dai piccoli paesini a vedermi, a dire andiamo a vedere al forestier, colui che viene dalla foresta, al forestier, no? E venivano a vedermi, insomma, però ero giovane, pieno di speranza e non avevo dei preconcetti, quindi l'ho accettato. Quindi un'attrazione per i paesini vicini. Veniamo dunque al cuore della questione che vogliamo affrontare, sentita la storia. Insomma, tanto il signor Cavatmi resta con noi e avremo modo di parlare. Saluto il vice ministro al lavoro, Maria Cecilia Guerra, buongiorno. Buongiorno. Allora, la questione che ci stiamo ponendo oggi, partendo da quell'orrenda battuta di Roberto Calderoli e anche, devo dire la verità, da tutti i commenti, gli status su Facebook che mi è capitato di trovare in merito, è questo. È abbastanza tipico che nei periodi di crisi, quando il lavoro scarseggia, si cerchi una sorta di colpevole esterno. Nella fattispecie gli immigrati, il famoso mito, e voglio capire con lei se è un mito questo oppure no, gli immigrati ci tolgono il lavoro. Dunque partiamo proprio da qua, Vice Ministro, ci tolgono il lavoro questi immigrati oppure no? Assolutamente no, noi siamo ancora legati a delle visioni del passato in cui sostanzialmente si attivavano dei flussi per chiamare gli immigrati a coprire dei lavori che gli italiani non volevano più coprire. Il mondo nel frattempo è radicalmente cambiato, nel senso che noi abbiamo gli stranieri che sono in Italia per più della metà lungo soggiornanti, con un forte aumento dei ricongiungimenti familiari, e con questo voglio dire che abbiamo una comunità molto ampia di persone che hanno deciso di stare in Italia, hanno costruito la loro famiglia in Italia, il lavoro in Italia in condizioni diverse da quelle che sono in cui sono adesso, e che quindi, come i cittadini italiani, hanno diritto di poter continuare a svolgere il lavoro, a essere aiutati nel cercarlo di nuovo, e quindi non si tratta di mettere gli uni contro gli altri, gli immigrati contro i non immigrati, quelli UE contro quelli extra UE, gli italiani contro tutti, ma di trovare soluzioni per l'occupazione nel nostro paese, per tutti quelli che ci sono. Altro mito sul quale vorrei una sua risposta è questo. Gli immigrati fanno lavori che gli italiani non vogliono più fare. Io vorrei capire questo. Allora, la cosa sicuramente negli anni scorsi era vera e abbiamo tante testimonianze di imprenditori che ci raccontano esattamente questo, insomma, soprattutto per quanto riguarda il lavoro nelle fabbriche. E possiamo dire che questa tendenza con la crisi che ha colpito durissimamente anche e ovviamente gli italiani, ma anche gli immigrati, che questa cosa non sia più vera, insomma, che l'adattabilità che un tempo sembrava non esserci da parte dei giovani italiani è arrivata finalmente? Penso che ci sia ancora un po' di verità in quello che viene detto. Noi vediamo, se guardiamo le dinamiche più recenti, vediamo che gli immigrati maschi sono afflitti ormai da un tasso di disoccupazione rilevante, e in generale per gli immigrati, tanto per capirci, la disoccupazione è attorno al 14,11%, con un forte aumento della disoccupazione maschile, soprattutto nei settori in cui la disoccupazione è cresciuta comunque, sia per gli italiani che per gli immigrati dalla UE che gli immigrati extra UE, e cioè nei settori dell'industria, in particolare anche dell'edilizia. Mentre invece l'occupazione degli immigrati, e in particolare delle donne, e in particolare delle donne extra UE, è cresciuta soprattutto nel settore dei servizi alla persona. Allora, i servizi alla persona, tipicamente il badantato, per chiamarlo con questo brutto nome, e l'assistenza domestica, è un settore in cui l'occupazione continua ad aumentare, e soprattutto si tratta di occupazione straniera. È vero che assistiamo ad un ritorno su questi mestieri anche delle donne italiane che li avevano abbandonati, ma è, diciamo, che questo è forse il settore in cui più tipicamente sono impiegati immigrati stranieri, così come in alcune tipologie di lavori stagionali, soprattutto nel settore dell'agricoltura. Quindi c'è del vero e del non vero. Diciamo che anche le comunità straniere hanno delle loro specializzazioni. Vederla nell'ottica di ci si porta via il lavoro, come dicevo prima, è invece sbagliato. E poi ci sono anche altre questioni che mi interessano e su questo torno a coinvolgere Cavatmi perché allora abbiamo detto che è un imprenditore, lo abbiamo raccontato. Da quel che ho capito è anche in corso una sorta, non so se ancora in corso, c'è stato una sorta di esperimento politico, Certo. no? Un movimento che si chiama Nuovi Italiani. E quindi, insomma, Cavatmi ha anche raccolto qualche dato e ha qualche osservazione interessante su questo tema. In particolare, la vorrei sollecitare su un paio di cose. Innanzitutto il settore pensionistico, perché questo è una cosa alla quale noi non guardiamo mai quando pensiamo a tutto questo, mentre invece è un elemento rilevante per l'equilibrio dei conti. Certo. Allora, un paio di dati in aggiunta, sono dati Istat. Allora, l'anno scorso abbiamo prodotto l'11,2% del PIL italiano, pari a oltre 200 miliardi di euro. Se voi pensate che Grecia e Portogallo stanno andando in bancarotta o stavano andando in bancarotta per 70 miliardi di euro, potete rendersi conto che la nostra questione non è una questione di quattro lavavetri, come la Lega Nord cerca di far capire. In più, noi versiamo nelle casse dell'INPS mensilmente oltre 820 milioni di euro, pari a 10 miliardi all'anno, ricevendo in cambio poco, diciamo, in quanto l'età media dei nostri lavoratori tra il 22 e il 30 anni, e non sono ancora un'età pensionabile. Questo, esatto, questo è un tema interessante che voglio sottolineare con maggiore energia. Che cosa succede? Che essendo i lavoratori immigrati dei lavoratori tendenzialmente giovani, non pesano sulle casse dell'INPS, ma contribuiscono nettamente anche a pagare le pensioni degli italiani che in pensione ci sono già andati. Ma addirittura un alto dirigente dell'INPS ha affermato che grazie ai versamenti che effettuano i lavoratori extracomunitari, le casse dell'INPS si stanno risanandosi, fra virgolette. Quindi è un dato estremamente importante. Poi non dimentichiamo che il lavoratore che arriva in Italia a 20, 22, 23 anni è già stato formato nel suo paese di origine e diventa una manodopera, fra virgolette, pronta ad entrare nel sistema produttivo nel nostro paese. Aggiungo l'ultimo dato: in un momento dove oltre 600.000 imprese hanno chiuso i battenti purtroppo per la drammatica situazione economica, 350.000 nuove imprese, il cosiddetto il popolo della partita IVA, sono aperti ad opera di nuovi italiani. Imprese che spesso impiegano italiani, tra l'altro. Certamente, soprattutto gli italiani, la mia impresa il 70% lavorano, sono lavoratori italiani. Però questo rifiuto che vediamo, no, nei confronti degli immigrati e che in parte sotto la pelle del paese c'è, adesso non con quei toni, no, non con quei toni che abbiamo letto e che abbiamo raccontato. Però in parte può essere giustificata, cioè c'è una difficoltà di integrazione culturale, una complicazione da questo punto di vista che genera disagio ed evidentemente timore. Ma guardi, tutto dipende di come dobbiamo affrontare praticamente la questione. L'integrazione significa si integra entrambe le parti, quindi io mi apro nei suoi confronti e lei si apre e cerchiamo di fare un cammino comune, legandoci a fattori essenziali che ci legano nel paese in cui viviamo. Dal momento in cui lei si chiude, no? E mi dà praticamente del negro o mi dà dell'extracomunitario, fra virgolette, no? Come un essere praticamente inferiore, non si può integrarsi. Noi stiamo assistendo negli ultimi anni ad una campagna ad opera di una certa forza politica. Io la prima volta, le faccio una premessa, parlo di questa questione. Ho voluto, pur facendo attività politica, evitare totalmente e ho dato disposizioni a tutti i nostri iscritti, ai nostri simpatizzanti, di fare il cosiddetto low profile, quindi un basso profilo, di non accettare e di non cadere in questo praticamente questa trappola e in questo scontro che non porta da nessuna parte. Ma ora la situazione è veramente ha raggiunto un livello intollerabile. La vorrei però portare da questo punto di vista a volare un po' più alto, no, rispetto alle dichiarazioni della Lega. Quello che mi stavo chiedendo io è proprio questo. Lei parlava di chiusura, di mancata volontà di integrazione, come dire, da parte italiana, ma a volte non c'è un difetto di volontà anche dalla parte, come dire, straniera, da parte dei migranti, un difetto di volontà di integrazione, Non voglio comunità chiuse, questioni di questo tipo. difendere, ovviamente sono parte in causa, ma io lo posso assicurare che chi ha deciso di venire a vivere in Italia, nel caso nostro, è costretto, fra virgolette, ad aprirsi e ad capire in quanto i suoi figli stanno nascendo e la sua storia praticamente sta iniziando in questo paese. Quindi deve aprirsi nei confronti del paese e della comunità dove vivono. Certamente ci sono certe comunità più chiusi rispetto agli altri, lei prende la comunità cinese con tutto il rispetto, sono comunità piuttosto più tendenzialmente ad essere praticamente a convivere fra di loro, ad essere meno aperti rispetto ad altre comunità che sono molto più aperti, molto più integrati, insomma, rispetto a questi. Noi vediamo per esempio le comunità islamiche fanno matrimoni misti fra musulmani e cristiani, no? Vengono celebrati. Io mi ricordo, sono stato il primo in Italia a celebrare il mio matrimonio fra un musulmano e mia moglie una cristiana. Lei è musulmano, Io quindi. E sono musulmano, mia moglie è cristiana, ho celebrato il mio matrimonio in ha una chiesa. studiato ai gesuiti, mi diceva. Certo, ho celebrato il mio matrimonio in una chiesa, alla chiesa di Parma, alla cattedrale di Parma. Mi ricordo fino ad oggi, no, l'arcivescovo, mentre celebrava il mio matrimonio, piangeva ripetendo il nome, perché il mio primo nome è Mohammed, no? E quindi in una chiesa ripetere il nome di Mohammed o di Maometto, no? Con una cristiana, praticamente che ci siamo sposati. E quando sono andato a chiedere la dispensa al Mufti, il Gran Mufti dell'Egitto, mi ha detto: vergognati. La chiesa è la casa di Dio, vai e sposati in chiesa. Ah, vedi, vedi, vedi che bello. Però non tutte le storie sono così. 9 in punto. Ed eccoci di nuovo. Eravamo rimasti un po' in sospeso con Radvan Kavatmi, imprenditore siriano che stiamo ospitando dall'inizio della trasmissione, che vi abbiamo voluto raccontare perché ci sembra un bel personaggio, che però ha detto una cosa che non mi convince fino in fondo, in tutta sincerità. Perché, insomma, si sta parlando di integrazione, dell'integrazione degli immigrati nel nostro paese. Inevitabilmente il discorso è caduto sugli immigrati di religione musulmana, sui quali spesso si concentra l'attenzione, ovviamente, perché, vengono percepiti, almeno percepiti, come quelli più difficili da integrare. Ci raccontava l'episodio del suo matrimonio, il gran muftì egiziano che gli dice: vatti a sposare in chiesa perché la chiesa è comunque Ah, sì. la casa di Dio. E insomma, il celebrante del matrimonio, insomma, un po' colpito da questo dover pronunciare Mohammed, appunto, all'interno del Duomo di Parma. E però, la realtà è che non è sempre così facile. Quello che dico è che può essere semplice per una persona come lei, ripeto, che ha studiato, di un livello culturale, alto, imprenditore, eccetera, eccetera, e però la realtà è che non è così facile. Purtroppo l'estremismo esiste da tutte le parti. Devo ammettere che ci sono. Noi parliamo sempre dalla parte dei musulmani praticanti che ci sono, ovviamente, e le moschee e le sue problematiche. Ma non dimentichiamo che la gran parte dei musulmani sono anche, ci sono i musulmani laici, ci sono i musulmani non praticanti anche, no? E quindi sono totalmente lontani da qualsiasi tipo di estremismo. Tengo a precisare che la stessa comunità islamica è una comunità non intransigente assolutamente, è molto aperta nei confronti di tutte le religioni. Se lei vede il cammino che ha fatto il dialogo interreligioso tra Islam e Cattolicesimo, abbiamo scritto candide pagine fino ad oggi, praticamente dalla nostra storia. Il Papa attualmente, la prima cosa che ha citato nel suo intervento dei fratelli è il rapporto e il cammino con l'Islam. Quindi dobbiamo guardare la parte positiva di quello che riguarda questo discorso. Devo ammettere che c'è anche una parte estremista, nulla da dire per quello che riguarda questo, ma cerchiamo di vedere in una chiave molto più positiva. Voglio tornare a coinvolgere il vice ministro Maria Cecilia Guerra, per tornare a bomba sul tema dal quale alla fine siamo partiti. Il rischio che la crisi vada ad esacerbare tutto, il rischio che la crisi incrementi le tensioni, non so se la parola è giusta o sbagliata, le tensioni razziali o razziste in questo paese. Lei cosa dice? Io penso che la parola non sia, ahimè, sbagliata, è molto vera. Noi abbiamo, come nei miei vari cappelli, posso dire che abbiamo delle segnalazioni di discriminazione basate proprio sulla provenienza, che sono peraltro molto concentrate sul mercato del lavoro e soprattutto discriminazione all'accesso. Tra le segnalazioni che arrivano all'UNAR, la maggior parte riguardano appunto il mondo dell'immigrazione e tra queste la maggior parte riguardano l'accesso al mercato del lavoro. E Quindi avete abbiamo. notato un incremento con l'arrivo di questa crisi così dolorosa? Sicuramente, adesso parliamo di numeri che non sono enormi per fortuna, però questo trend ci sembra di poterlo rilevare e soprattutto abbiamo fatto anche con un altro cappello, però abbiamo fatto un'indagine che è stata pubblicata l'altro anno con l'Istat per quanto riguarda la percezione che gli italiani hanno rispetto agli immigrati e quello che emerge è che mentre a parole la maggior parte, ma la grandissima maggior parte degli italiani si pronuncia contro il razzismo e in particolare però riconosce, sempre una maggioranza molto elevata di italiani riconosce che c'è razzismo nel nostro paese, quando vai a declinare poi le domande, cioè a dire tu che riconosci che c'è il problema e che non dovrebbe invece esserci, però se quello che lavora vicino a te, se quello che abita nella tua casa è un immigrato o se un immigrato vuole sposare tua figlia o tuo figlio, com'è la tua reazione? E le nazioni mostrano ancora molta resistenza all'integrazione. Abbiamo anche una grande ignoranza del fenomeno, cioè la gente pensa che la maggior parte degli immigrati arrivi coi barconi e non è vero, la gente pensa che la maggior parte degli immigrati siano di religione musulmana, mentre invece sono di religione cristiana, e quindi abbiamo proprio un'ignoranza della conoscenza. Eppure abbiamo 800.000 bambini che frequentano le nostre scuole, che sono fianco a fianco con i nostri figli, e quindi questo pone veramente dei problemi culturali di conoscenza che il nostro paese deve affrontare, io credo prima di tutto ponendosi in modo serio il problema della cittadinanza, sia per i bimbi nati qua, sia per l'acquisizione di cittadinanza e quindi diritto di voto, di partecipazione, anche per le persone che sono qua, come molti, da un numero significativo di anni. È vero che la crisi spinge all'individualismo e quindi spinge a cercare, come diceva lei, di colpevolizzare altri soggetti e specialmente a non accettare la povertà, l'emarginazione, cioè a considerare che povertà e emarginazione siano la colpa di chi si trova in quelle situazioni e non invece di una società che non riesce a farsi carico di una piena inclusione sociale di tutte le persone. Vorrei restare ancora un attimo sul punto, perché tra poco ospiteremo Dimitri Deliolanes, che è un collega che lavora per la TV pubblica greca, o per quello che ne rimane, insomma, magari chiederemo anche qualche dettaglio su questo. Lo ospiteremo per parlare di quello che è il fenomeno Alba Dorata, in questo senso. Noi vediamo in Grecia una crisi che chiaramente è, per una serie di motivi, molto più profonda della nostra, e abbiamo visto l'emergere di un partito sostanzialmente neonazista. Allora, io vorrei capire da lei se intravede, con l'approfondirsi della crisi, della quale al momento non riusciamo a vedere la famosa luce in fondo al tunnel, non riusciamo a vederla davvero, se con l'approfondirsi della crisi ci sono rischi di anche di derive politiche di questo tipo. Ma io credo che la battuta di Calderoli, battuta chiamiamolo così, l'uscita veramente nefasta di un vicepresidente del Senato, sia una battuta che è una battuta che ha una natura profondamente politica, cioè chiaramente viene fatta da persona che è intelligente e anche un navigato politico per avere il consenso di una propria parte politica, e se questo consenso richiede di fare delle battute che sono profondamente razziste, non ci si tira indietro, e questo quindi è significativo che si cerca e si pensa di poter trovare consenso agitando queste paure, la paura appunto della invasione da parte degli immigrati. Adesso non sto parlando di un movimento neonazista in questo caso, sto parlando del tema del razzismo, ma che il tema del razzismo sia un tema molto sensibile politicamente, cioè che viene usato per trovare consenso, ne abbiamo la prova proprio anche in questo recente episodio. Ciò non toglie che ovviamente il problema dell'immigrazione esiste, cioè non è che noi abbiamo anche come Ministero del Lavoro la necessità di cercare sempre di più di guardare per la parte di immigrazione che è in un qualche modo programmabile, di avere il più possibile sintonia fra la domanda e l'offerta per non far entrare persone che vengano ad essere indigenti e disoccupati, da un lato. Dall'altro abbiamo la necessità di mettere a punto degli strumenti di accoglienza più accurati per quanto riguarda le persone che arrivano da paesi che sono in guerra, in carestia e rispetto al quale c'è un problema umanitario imprescindibile. Quindi è un tema molto complesso che va affrontato, diciamo, laicamente, e queste boutade così caratterizzate politicamente nel senso del razzismo sicuramente non giovano neanche a trovare soluzioni adeguate al mutamento dei fenomeni. Ci vuole una revisione della legge sull'immigrazione, in sostanza, dice lei? Io credo che ci voglia assolutamente, credo che si possa fare in forme molto diverse, ci sono degli aggiustamenti che si possono fare anche in questo quadro politico, ci sono dei temi più ampi che ovviamente... Per esempio, Vice Ministro, quali aggiustamenti? Noi ne abbiamo anche già fatti alcuni proprio come Ministero del Lavoro nel corso, diciamo, anche degli ultimi anni. Le faccio un esempio, noi abbiamo lavorato molto sulla stagionalità, e abbiamo fatto il permesso di lavoro stagionale pluriennale e ogni anno dovevano avere un defatigante processo amministrativo per essere in regola. Questa idea invece di un permesso che viene dato con una durata pluriennale semplifica molto tutto quanto. È un'idea molto importante che è stata fatta proprio anche dalla Comunità Europea, che sta proprio ponendo una direttiva che prende questa nostra proposta. Un'altra cosa importante riguarda la durata del permesso di soggiorno, cioè noi ci siamo trovati nella situazione in cui gli immigrati perdono il lavoro, come li perdono purtroppo anche gli italiani, siamo in una situazione di crisi, entrambi perdono il lavoro. L'immigrato extracomunitario che perde il lavoro, pur essendo coperto, come lo è con l'italiano, da ammortizzatori sociali come la cassa integrazione, che erano magari costretti a rientrare in patria, una patria che poi non è più la loro perché sono da tanti anni che sono qua, perché gli scade il permesso di soggiorno, pur essendo ancora in una situazione di copertura prevista per le nostre regole. Quindi noi abbiamo allungato il permesso di soggiorno in modo tale che rientri poi anche nelle norme della ricongiunzione familiare, quindi anche scaduto il periodo più lungo che siamo riusciti a concedere, se però uno ha un sostegno familiare in Italia non è costretto a rientrare. È stato un piccolo passo, se devo dire, mi ero già battuta perché si trattasse di un periodo più lungo, perché come dico, quando uno è qua, ha qua la sua famiglia e secondo me il rimpatrio non ha proprio più senso, però quella mediazione che è stata fatta, portare a 1 anno da 6 mesi che era, è stato comunque un passo avanti, quindi si possono fare dei piccoli passi in relazione al quadro politico o dei passi più coraggiosi in futuro potranno riguardare ovviamente il reato di clandestinità, sicuramente interventi urgenti riguardano il funzionamento dei CIE che noi sappiamo molto spesso pongono dei problemi proprio di salvaguardia della dignità delle persone che non sono sempre ben risolti. E ovviamente, ripeto, i piccoli passi non vanno affatto sottovalutati. Non vanno sottovalutati, comunque ci vuole volontà politica, insomma, almeno della maggioranza. Vedremo che cosa succederà da questo lato. Intanto io la ringrazio, Vice Ministro. Buona giornata. Buona giornata anche a voi. E dunque, adesso noi ci prendiamo una pausa per la viabilità. Poi, come già annunciato, dato che il tema resta quello, insomma, la crisi, la crescita del razzismo, l'identificazione del colpevole, ci vogliamo collegare con un giornalista, un amico di Radio 24, per così dire, insomma, perché l'abbiamo ospitato anche altre volte, Dimitri De Leonanes, che ci parlerà invece della situazione greca, dove, come sapete, un partito dichiaratamente nazista, ha ottenuto degli ottimi risultati elettorali. 9 in punto. Ed eccoci di nuovo, Dimitri De Leonanes, corrispondente di cosa? Della TV pubblica greca. Dimitri, che cosa dobbiamo dire? Sempre, sempre ERT, Televisione Pubblica Greca, che non ha chiuso, continua a lavorare in streaming. Come siete messi là? Già che ci siamo, raccontacelo, insomma, visto che ne abbiamo già parlato. C'è un braccio di ferro tra il governo e i lavoratori della televisione pubblica perché il governo sembra non rispettare gli accordi e va avanti nel suo progetto che è creare la sua TV centrodestra, praticamente, una TV di partito. Noi aspettiamo che ci siano una decisione della magistratura sul nostro licenziamento, sulla chiusura dell'ERT che dovrebbe arrivare adesso a settembre, per cui c'è un braccio di ferro, vediamo chi cede per primo. Intanto trasmettete in streaming senza stipendio. Senza stipendio. Una questione da tenere sott'occhio, se avremo tempo magari ci torneremo. Senti, Dimitri, io ti ho chiesto di intervenire in questa trasmissione perché abbiamo deciso di parlare di immigrazione, partendo da una questione fondamentale, il fatto che spesso nei periodi di crisi, lo abbiamo già detto, spesso nei periodi di crisi si tende ad identificare un colpevole, nella fattispecie l'immigrato. Ora, mi sembra che questo fenomeno sia emerso in maniera macroscopica, in Grecia, con l'arrivo di Alba Dorata. Come sappiamo, è un partito neonazista che ha avuto delle percentuali molto alte alle elezioni. Ci puoi dare un aiuto ad inquadrare tanto il fenomeno dell'immigrazione in Grecia, che è in realtà più ampio che da noi, quanto questo fenomeno politico? Sì, allora guarda, hai detto, praticamente hai già esposto il problema. La Grecia, secondo dati della Commissione europea, è il punto di passaggio di una percentuale molto alta, 65-70% degli immigrati che sono diretti verso l'Europa. Molti di loro però rimangono bloccati dentro la Grecia e non riescono a raggiungere il nord Europa, che è la loro vera meta. E questo fa in modo che ci sia in proporzione un numero assolutamente sproporzionato. Mentre per una ventina d'anni circa i vari governi socialisti e conservatori si sono alternati, hanno chiuso tutti e due gli occhi perché in fondo gli conveniva avere manodopera a basso costo che faceva i grossi lavori anche le Olimpiadi, hanno impiegato ampiamente i lavori per le Olimpiadi manodopera straniera. Con la crisi è successo che i posti di lavoro sono molto diminuiti, lavori che prima i greci snobbavano adesso sono diventati preziosi e quindi è scattata questa guerra tra i poveri. E questo ha condotto all'esplosione di questo fenomeno politico, sostanzialmente. È di fatto una risultante della mancata azione politica dei partiti tradizionali in merito al problema. Sì, diciamo che un cittadino greco ha più di 1 milione di motivi per avercela con la sua classe politica, no? Penso anche gli italiani non siano No, immuni non a ci man- no, questo. non ci mancano Esatto. decisamente. Quindi c'è una parte di questi cittadini molto molto arrabbiati, giustamente con la loro classe politica, che vede nel voto verso Alba Dorata una maniera molto dolorosa e molto scottante per punirli. Dopodiché ci sono però c'è anche la pratica di questo gruppo politico che è interessante. Sono entrati in Parlamento con 18 deputati, i sondaggi li danno in continua crescita, l'ultimo che ho letto li dava l'11%, però la loro pratica, stranamente, nella Grecia in crisi, non si concentra sulla crisi, su come uscire dalla crisi, se rimanere nell'euro, se uscire dall'euro, che cosa fare con la Troica, tutte cose alla scottante attualità nel dibattito politico greco, ma si concentra quasi unicamente nel cacciare, picchiare, qualche volta anche uccidere gli immigrati, come se gli immigrati fossero il problema numero uno della Grecia. È un problema sicuramente, ma non è quello più importante. E quindi è interessante tutto questo. Come ha sentito anche nell'intervista Cavatmi con la vice ministro Guerra, insomma, lei diceva che qualche segnale di un incremento di episodi di discriminazione a causa della crisi, in realtà lo stiamo avendo. Dal suo osservatorio, che sensazione ha? Confermo esattamente quello che ha detto il corrispondente che la saluto. Purtroppo anche da noi la situazione comincia ad essere abbastanza tesa, no? Con una differenza molto importante. Noi la reazione da parte di certi dirigenti, da parte della Lega Nord, è cominciata molto tempo fa. Le prime offese sono iniziate praticamente, no, appena che la Lega Nord è andata al potere. Non dimentichiamo l'autobus separati a Milano, autobus per italiani, autobus per stranieri, ma non eravamo in tempi di crisi. Non dimentichiamo il muro da costruire a Padova. Non dimentichiamo le gratuite offese di un grande senatore dalla Lega Nord portando i maiali davanti a luoghi di culto. Quindi queste forme di razzismo puro sono iniziate molto prima dell'attuale crisi economica. Anche su quest'altro tema, il tema dello Ius Soli e soprattutto del voto, c'è un impegno da parte vostra, mi diceva. Allora, su quello che riguarda questi aspetti, il Movimento Nuovi Italiani e io personalmente ho iniziato una lunga battaglia, iniziata praticamente 15 anni fa. Devo veramente ringraziare in questa circostanza l'ex ministro Frattini che aveva veramente dato un grande sostegno a noi. L'Italia, no, è stata uno dei primi paesi europei ad aver proposto e accettato praticamente il diritto al voto amministrativo, ripeto a dire amministrativo. Mi chiedo, se io sono un cittadino per bene, pago le tasse, lavoro, mando i miei figli a scuola, parlano la lingua italiana, per quale motivo il giorno del voto e la scelta del mio sindaco o del mio consiglio comunale io devo uscire dalle file e non posso io scegliere i miei amministratori? Questo accade già in Europa, accade in Francia, in Germania e in diversi paesi europei. Vi dico perché? Perché è bloccato totalmente da parte dei dirigenti della Lega Nord. Tanto vero che hanno minacciato una crisi di governo all'ultimo governo Berlusconi se avesse trattato questo argomento. Mentre per quello che riguarda il diritto praticamente alla cittadinanza. Allora, io la devo interrompere qua perché se no, insomma, andiamo troppo lunghi sulla trasmissione, siamo quasi in chiusura, ci manca un minuto, quindi giusto il tempo per i saluti. Allora, i miei saluti naturalmente a Dimitri Degliolanes e in bocca al lupo Dimitri per la sentenza. Grazie. Di settembre, se non ci sentiamo prima in trasmissione, comunque tanto ci sentiremo al telefono noi, insomma. Grazie anche a Radvan Kavatmi per essere stato con noi, magari lo ospiteremo altre volte, magari a confronto anche con un esponente leghista, così facciamo con molto piacere. Perfetto, con così, molto piacere. Così facciamo le cose, una cosa di confronto proprio. Grazie a Alessandro Marcotulli in redazione, Carmelo Lauricella in regia, a tutti voi per l'ascolto. Ci sentiamo domani con Votantonio oppure lunedì con 9 in punto. Ricordati, mancano 73 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente.